perderli. Quel clone in una stessa moda, quei cruzi che non fanno mai pace. Tra marche e vestiti di sogni prebiti, sempre alla ricerca di un altro modello da imitare. Sono già cosa da copiare, quello di una moda da seguire. Sono figli di un'eredità, sono figli di una discolabra, sono figli della notte di questa città, città. Sono dei